Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Bentrovati in questo nuovo appuntamento con il mondo della scuola che procede il suo percorso anche accompagnando gli studenti, i genitori, gli insegnanti in tutto il percorso annuale che è iniziato appena da poche settimane. Periodicamente parliamo anche di orientamento scolastico, che è una fase importante della vita della scuola per gli studenti e per le famiglie. Ben ritrovato a Giampaolo Alimede. Ben ritrovati a te e agli ascoltatori. Con tanti ospiti, come sempre, che tu porti, come sempre in questo primo quadrimestre, usiamo la terminologia scolastica, alcuni studenti di prima superiore. Ne conosciamo due, innanzitutto, che sono due ragazze, frequentano entrambe un CFP con due indirizzi diversi presso l'Istituto Madonna del Grappa, le Canossiane a Treviso, sono Aurora e Eri, benvenute. Salve. Benvenute a tutte e due. Allora, primo anno vero per Eri, primo anno non proprio primo invece per Aurora. Allora, raccontaci subito la tua esperienza. Tu hai fatto l'anno scorso un'altra prima in un'altra scuola. Sì, ho fatto la prima superiore all'Alberini, all'Istituto Alberghiero. E sono stata bocciata perché sono stata male, sono stata in ospedale e poi mi è passata la voglia di studiare perché la scuola non mi piaceva e così ho scelto di cambiare indirizzo. Hai cambiato, ma non è che adesso si studia meno, penso. No, studia un pochettino di più. Va bene, allora adesso ripercorriamo anche con l'aiuto di Giampaolo un po' la storia di ciascuno e poi ci sono altri due ospiti che avremo, che intanto sono in regia con Eddie. Abbiamo detto che scuola stanno frequentando. Passiamo al punto 2, vuoi introdurlo? Passiamo all'aereo, perché l'aereo. Tu sei partito, diciamo, partito con da l'accelerazione, lì, in seconda partito, sei partito. Esatto, dalla seconda. Invece l'aereo... Io provengo dalle scuole medie di Silea, Marco Polo, e questo è il mio primo anno di superiori e sono del 99. E perché hai scelto questa scuola e questo indirizzo? Tu fai esattamente indirizzo amministrativo? Segretariale, perché ero decisa tra Besta e il CFP, poi le prof hanno consigliato di fare il CFP, quindi ho scelto le Canossiane. Ok, nel tuo caso invece Aurora, tornando, perché proprio questo indirizzo? Perché, vabbè, a parte alle scuole medie mi avevano già consigliato di prendere un CFP e io avevo detto, vabbè, l'alberghiero è un istituto professionale, però poi sono andata là e mi sono accorta che tanto professionale non era, perché c'erano poche ore tecniche e tante ore di teoria. E con la voglia di studiare che ho, non ho tanta voglia e quindi così, insomma, di cambiare. Hai fatto una scelta diversa, sì. Che vedremo, insomma, se sarà corretta. Allora, queste due ragazze hanno detto delle cose interessanti. Dunque, sono tanti anni che facciamo queste trasmissioni, quindi diciamo siamo un po' esperti, siamo un po', diciamo, conosciamo tante cose, ecco. Allora, io mi soffermerei su due cose: sulla voglia di studiare. La voglia di studiare, io dico sempre, è come le ciliegie, una tira l'altra, e proprio dal CFP ci sono stati degli allievi che, non avendo voglia di studiare, alla fine si sono laureati. Perché? Perché cammin facendo si apprezza sia lo studio, ci si chiariscono le idee e si capisce meglio quale potrebbe essere il proprio futuro. Quindi mi pare di aver colto nell'intervento dell'aereo una specie di dire: faccio il CFP o perché è una scuola un po' meno forse faticosa. Invece non è vero. Alla fine la scuola è un ambiente dove si matura ed ogni pianta ed ogni fiore ha bisogno del suo terreno e poi esplode nella sua bellezza, che è originalissima. E quindi questa è una considerazione importante da fare. Non ci sono scuole di serie A, non ci sono scuole di serie B e neanche di serie C. E neanche di serie alunni D. Di A, di B e di C, a parte le sezioni. Esattamente, la scuola è un ambiente di maturazione e quando uno comincia a rafforzarsi, dopo parte per altri lidi che potrebbero essere dal CFP all'università. Vedremo, poi glielo auguriamo. Vedremo. Esatto. Ad entrambe una domanda: se la scuola che avete scelto queste prime settimane, insomma, come sono state, se l'ambiente che avete incontrato è come ve lo immaginavate, Eri? Sì, esatto. Cioè, nelle prime settimane le verifiche, diciamo, sono anche un po' più facili, comunque ne abbiamo fatte abbastanza finora, tutte andate bene. E sì, mi avevano consigliato anche le canossiane perché, cioè, le prof erano brave, spiegavano bene, e sono d'accordo con questo fatto. Poi per l'ambiente non avevo molti consigli, non mi avevano parlato molto dell'ambiente, però comunque mi trovo bene. Non c'eri stata prima? No, nessuna pre-visita. No, esatto. Aurora, prime settimane di scuola, come stanno andando? A parte che hai poca voglia di studiare, questo l'abbiamo capito, però compagni, eccetera? No, compagni e professori sono ottimi, e le professoresse spiegano bene, sono qualificate. E mi trovo bene, e anche, insomma, per la struttura l'avevo vista un pochettino prima, solo che visitandola meglio, standoci in classe, è un'ottima scuola. Hai citato i professori, allora sì. Tu hai già 2 anni di differenza dalle medie, invece Eri ne ha pochi mesi di distanza. Che differenze principali vedete tra i professori delle medie e quelli di adesso? Beh, delle medie sono anche un po' più pazienti, magari nel richiamano più volte prima di prendere provvedimenti, invece alle canossiane, diciamo che non spendono molto tempo a richiamare, più che altro passano subito ai fatti. E diciamo che io mi trovo bene di più alle canossiane che alle medie, e cioè, le professoresse magari spiegano, sono più qualificate, ma mi trovo meglio con le professoresse, spiegano, diciamo, un po' meglio delle medie. Uh-huh. Poi ci sono anche materie in più, quindi hai anche più professori. Esatto, ovviamente. Esatto. Aurora, come erano quelli delle medie rispetto adesso, o viceversa? Allora, quelli di adesso sono molti di più, a parte quello. E solo che li vedo, questi professori, anche molto, come ha detto l'Eri, molto più sui fatti, tipo tutti disturbi. Dicono una cosa è quella. Sì. Invece magari alle medie si cercava comunque di cercare una via, diciamo, un po' più di manica larga, sì. Ecco, diciamo, sì. Così, allora, intanto le abbiamo conosciute, facciamo una prima pausa musicale, poi torniamo con loro, ma poi ci sono altri 2 ospiti in attesa tra poco. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Fine, fine, pioggia di piccole spine. Dal cielo velato cadute spruzzate, paracadutate. Fine, fine che allaga tombini e cantine, in piccole pozze riunite ad un'ate, a 2 piedi saltate. Scendi lentamente, portale i miei saluti più sinceri, batti piano sui vetri e sciogli i dispiaceri. Scendi piano piano, che ti senta arrivare da lontano, che abbia tempo per riparare, rifiatare. Fine, fine, pioggia e corone di spine, nel cielo imbiancato con cura intrecciate, ad ognuno assegnate. Fine, fine, cadono grani e perline in queste mattine d'estate infiammate, a lungo invocate. Scendi lentamente, porta lei i miei saluti gentilmente, lascia che si riposi e non le mani. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Seconda parte di questa puntata dal mondo della scuola, Mirko Cavallini in studio, Adi Daici in regia, accompagnato il sottoscritto da Giampaolo Alimede in studio con alcuni studenti di prima superiore. Siamo con Eri e Aurora che frequentano due diversi indirizzi del CFP alle Canossiane di Treviso. Già prima Aurora parlava dello studio, e della poca voglia, eccetera, eccetera, sempre magari confrontando con le medie e soprattutto Eric, a qualche mese di distanza dall'esame di terza media, che differenze trovi rispetto al modo di studiare o la quantità di studiare, i compiti per casa, eccetera? Alle medie, prima di fare un compito, si parlava di più della materia, ad esempio andavamo avanti anche un mese prima di fare il compito. Qui invece le cose si fanno molto in fretta, ti spiegano sì, però dopo il resto, cioè, devi farlo a casa. Invece alle medie ti aiutavano molto, molto nello svolgimento del programma, te lo spiegavano meglio, diciamo. Mm-hmm. Beh, ci passavano più tempo prima del compito. Aurora, avevi già detto prima, insomma, che certo si studia anche qui, anche se è un CFP. Sì, ma rispetto alle medie? Sì, rispetto alle medie. Rispetto alle medie, dove ho fatto io, diciamo che dove ho frequentato io le medie, passavo molto tempo prima di fare una verifica, passavano anche tipo due mesi e mezzo e ti spiegavano tante robe, quindi avevi anche tante pagine da studiare. Invece adesso fai quei 2-3 capitoletti e fai la verifica per, insomma, vedere se realmente hai capito di quello che si sta parlando. Però comunque nello studio non è che... cioè non c'è molto di più. Allora, abbiamo capito che alle scuole superiori dovete mettervi con maggiore, diciamo, responsabilità nello studio, però avete anche delle responsabilità diverse dalle scuole medie. Per esempio, che responsabilità avete in più rispetto a un anno o due fa nei confronti, per esempio, dei vostri compagni di classe? Vabbè, l'aereo mi stava dicendo l'autobus, però... No, dentro nella scuola, va bene, l'autobus, giusto, è un'autonomia importantissima, no? Ma dentro nel mondo della scuola, nelle superiori, avete delle responsabilità che non avevate nelle medie. Tipo? Fare il rappresentante di classe. Brava. E cosa vuol dire questo? Significa, insomma... vedere insieme ai professori l'andamento della classe, vedere se c'è qualche ragazzo indietro, magari si dà una mano, e comunque anche per tutte le altre robe, insomma, l'andamento generale della classe. Ecco, quindi siete più protagonisti, esatto. O no? Sì. Li avete, sì, già, vero? Eletti? Sì. Sì. Già eletti. Quindi avete votato per la prima volta nella vostra vita. Più. Sì, sì. No, anche l'anno scorso abbiamo votato per il consiglio dei ragazzi. Nella nostra scuola c'era il sindaco ragazzo e noi dovevamo votare. Ok, che è una cosa un po' diversa rispetto, sì, esatto, al rappresentante di classe. Allora, tengo le ultime due domande per la fine. Sì, adesso sì. Facciamo miracolosamente un cambio di scena. Arrivederci ragazzi, a dopo. Miracolosamente, appunto, compaiono altre due persone, altri due studenti di prima che si presentano da soli. Io sono Mirka e frequento il Duca degli Abruzzi, indirizzo economico-sociale. Io sono Rocco e frequento il più decimo liceo scientifico, scienze applicate. E quindi altre due realtà diverse. Perché questa scelta? Quindi torniamo alla prima domanda, Mirka. Ritengo la psicologia molto interessante e, consigliato anche un po' dai professori, ho deciso di fare questa scelta e andando incontro anche un po' ai consigli che mi aveva dato anche mia mamma e degli amici che mi avevano consigliato un liceo scientifico. Rocco? Io invece ho scelto liceo scienze applicate perché non volevo fare il latino. Ah, ecco, che è sempre uno scoglio grande. Belli sti ragazzi, sono genuini. Hai tutte le materie uguali meno il latino praticamente, sì, o quasi. Più ore di scienze. più a materie scientifiche. Mirka citava i genitori, che prima non abbiamo tirato in ballo. Qualcosa tu hai già detto, insomma, ti hanno consigliato, ma non ti hanno spinto. Sì, mi hanno solo dato delle idee per scegliere la scuola, ma alla fine mi hanno fatto fare una scelta mia, cioè quello che volevo fare di più. Cioè. Rocco? Io invece ho... I miei genitori mi hanno lasciato scegliere da solo, mi hanno solo consigliato la scuola che secondo loro era più adatta a me. Quanto ci avete messo per scegliere? Cioè avete scelto subito oppure siete rimasti indecisi fino alla fine? No, io sono rimasta molto indecisa fino alla fine, infatti non sapevo neanche se c'era più posto perché ero al limite. Mm-hmm. Anche io ho scelto gli ultimi giorni prima della fine. Questi ragazzi qua però sono interessanti, no? Perché le cose bisogna farle con calma. Mi piace perché i genitori vostri hanno capito che la responsabilità è di chi va a scuola, non di chi sta a casa e manda gli altri a scuola. Questo è molto importante perché... Certo, parliamo in un minuto, se ce la facciamo, dei primi giorni di scuola. Mirka, per te sono stati un po' diversi, forse, iniziato, rispetto ad altri. Io ho iniziato 3 giorni prima la scuola, ho fatto l'accoglienza e mi sono molto trovata bene, perché quando sono... cioè il primo giorno effettivo di scuola ormai eravamo già un gruppo e già ci conoscevamo, quindi... Cosa avete fatto? Ci siamo conosciuti e ci siamo fatti delle domande sullo sport, sulla nostra famiglia, dove abitavamo e basta, non... nient'altro. Noi invece abbiamo anche noi iniziato la scuola una settimana prima, e però non abbiamo fatto accoglienza, abbiamo fatto ore di matematica per ripassare gli argomenti che avevamo affrontato nella terza media, per poi non doverci soffermare troppo quando la scuola era già iniziata. Anche per capire se eravate tutti allo stesso livello, come eravate preparati. Un minuto, sono stati bravi, ultima pausa musicale, poi ancora insieme. Dal mondo della scuola. Prima parte di questa puntata dal mondo della scuola dedicata al tema dell'orientamento con alcuni studenti che stanno frequentando una prima superiore al Da Vinci, alle Canossiane, al Duca degli Abruzzi, al Pio X, giusto, per quanto riguarda Rocco che è qui con noi in questo blocco con Mirka. Confronto tra questi primi mesi di superiori e gli anni delle scuole medie, si studia di più, si studia di meno, come sono i professori? Per quanto riguarda i compiti ci sono meno scritti ma più pagine da studiare, però i professori sono comunque tanto disponibili a spiegarci e non ho trovato molta differenza, mi sono trovata bene però. Io invece, come ha detto Mirka, le pagine da studiare sono di più e l'unica difficoltà che ho incontrato sono state nella chimica, perché era una nuova materia e quindi era tutto un mondo nuovo. Condivido questa tua sofferenza, la chimica non è mai stata la mia passione, l'ho sempre sofferta. Ecco, io sono un perito chimico che ha cambiato mestiere perché alla fine si era stufato di quello che aveva studiato. Questo quindi non è scegliete un bene, studiare, scegliere bene all'inizio è importante, ma i miei erano altri tempi. Degli insegnanti abbiamo già detto, la scuola che adesso state frequentando l'avevate già vista prima, è come ve l'aspettavate? Io non sono andata all'open day ma ho fatto una giornata allo stage e sono stata lì 4 ore e ho visto proprio come delle lezioni di diritto, che comunque per me era una materia nuova. E mi è subito piaciuto, infatti mi ha molto incuriosito e mi piace come materia anche tuttora. Io invece sono andata all'open day, però ho anche fatto uno stage dentro la scuola. Ho fatto un'ora dentro una classe sempre del liceo scientifico e poi ho frequentato il laboratorio di robotica dentro, sì, con le classi quinte. Bene, insomma avete avuto già dei contatti precedenti che sono importanti, no, sì, Giampaolo? Sì, sì. Perché aiutano certamente, ormai è una tradizione consolidata questa, no, di andare a fare o gli open day o queste diciamo giornate di laboratori e di lezioni assistendo a quello che è e sarà la scuola superiore. Quindi indirettamente avete dato anche un consiglio ai vostri amici di terza media, no? Di seguire tutte queste iniziative con curiosità. La curiosità mi pare una sottolineatura importante da fare, è quella che fa venire voglia anche di fare il resto. Cosa dici tu che hai usato questa espressione? La curiosità quanto pesa? Molto, perché alla fine, cioè, come scuola non ero molto convinta, però lo stage mi ha dato una conferma di quello che stavo andando a fare. Adesso le abbiamo radunati tutti e quattro, quindi si sono riaggiunte Eri e Aurora e proviamo insieme a dare dei consigli a chi adesso è in terza media e entro poche settimane deve scegliere che cosa fare, no? Come avete fatto voi lo scorso mese di gennaio. Allora, se doveste dare dei consigli a chi è in terza media, Eri, cosa ti verrebbe di dire? Beh, innanzitutto di fare una scelta, non essere frettolosi, chiedere un consiglio agli amici, ai parenti, ai genitori, alle prof prima di fare questa scelta, poi magari andare a un open day e magari sì, anche uno stage come ha fatto Mirka, per magari conoscere meglio la scuola, così ad esempio l'anno prossimo tu vieni bocciato e non sei obbligato a cambiare scuola, insomma, sei sicuro della tua scelta. Ecco, invece chi ha cambiato scelta, cioè Aurora, tu hai un anno di esperienza in più, quindi sì, forse il tuo consiglio è ancora più valido perché è in terza media. Sì, io in terza media ho scelto di fare l'alberghiero perché, diciamo, ero indecisa tra il liceo artistico e l'istituto Alberini. Solo che poi, vedendo la mia voglia di applicarmi allo studio, che è poca, come abbiamo detto prima, sì, ho deciso, vabbè, vado all'alberghiero perché pensavo si studiasse meno. Quindi, diciamo, è stata una scelta un pochettino così frettolosa e su due piedi, diciamo. Non era il criterio giusto con cui scegliere. Ecco, quindi diamo un consiglio al contrario, anche questo molto, è importante. Molto importante quello che ha detto l'Aurora. Sentiamo Rocco se ha qualche aggiunta. Secondo in più. Me è importante scegliere una scuola non perché ci vanno i propri amici, ma una scuola che ti piace, perché dopo gli amici si fanno comunque quando frequenti la tua classe. Bene anche questo. Avete mantenuto qualche compagno di classe? Nessuno? No, nessuno. Sì. No. Aurora sì, o ne hai ritrovati? No, però comunque ho mantenuto amicizie con le medie e anche, insomma, con la classe dell'anno scorso. Allora, un flash per chiudere. Chiedo a ciascuno di sintetizzare in un numero, sì, un numero, il proprio risultato di fine anno, quello che sperano o che pensano di raggiungere. Un voto, insomma, diamo un voto complessivo all'anno. Da 1 a 10. Uno a 10, come si fa a scuola. Mirka? Beh, io spero intanto di essere promossa, però spero in un 7, dai, 7,5. Aurora? Io spero, sì, anche io di essere promossa almeno, e anche io spero 7, speriamo anche 8, sono ottimista. Rocco? Io spero di essere promosso e in un 8. Eri? Anche io ovviamente di essere promossa e 7-8 come l'Aurora. Aurora è simpatica, ho detto 8, ottimista. Io ho scritto. Poi vi rintracceremo e nella puntata che faremo a giugno, prossimo anno, diremo i ragazzi dell'anno scorso hanno mantenuto la loro previsione. Speriamo, allora, di non deludervi. Speriamo, esatto. Vi facciamo l'in bocca al lupo perché l'anno è lungo, e impegnativo ancora, con l'augurio e l'impegno magari a rivederci anche nel corso dell'anno o nelle prossime annate. Vi ringraziamo per essere stati con noi, in bocca al lupo e buon anno scolastico. Grazie mille. Saluti a tutti. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.